laboratorio dei disegni, delle attività di artigianato prevalentemente, e dove si imparano anche alcune autonomie, anche ad esempio lì la nostra Pamela sta imparando a versare l'acqua nel bicchiere, né? Che è un'abilità che la porterà a essere autonoma nel momento del pasto, no? E niente, qua si fanno prevalentemente laboratori di artigianato, come potete vedere abbiamo lì dei centri tavola, un albero di Natale fatto con i pompon di lana, e questi laboratori vengono fatti qua grazie anche all'aiuto di educatori, servizi civili, ma anche di volontari. Il soffitto qua fa parte del reperto storico, infatti non può essere imbiancato, e così è proprio particolare.